Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo di gelato. Parleremo di gelato perché è il momento, è cominciato il caldo e sicuramente il gelato ha un grande successo. Basta vedere le gelaterie nelle grandi città, basta vedere allora di pranzo che file ci sono. Ma noi vorremmo un po' esplorare del gelato, un po' quel mondo particolare che si definisce o non si definisce artigianale. Cioè molte gelaterie hanno affisso questo cartello, appunto, gelaterie artigianali, altre non lo hanno. Allora andiamo a vedere quell'artigianale, che cosa significa? Esiste un disciplinare? Esiste una regolamentazione? E le stesse associazioni, diciamo, hanno controllo su coloro che mettono questo cartello artigianale, appunto, e vediamo che cosa significa. Cominciamo subito da un personaggio che appunto ci darà delle informazioni, che è Marco Giannuso, presidente dei gelatieri della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Buongiorno Giannuso. Buongiorno Paolini. Voi con la Confartigianato sono ben 3 anni o 4 anni che state lavorando per arrivare a un disciplinare, quindi disciplinare questo grande mondo del gelato, però mi risulta che ancora non siamo arrivati in fondo. Invece la devo contraddire. Mi bene, sono contento. Arrivati in fondo, è proprio notizia di questi giorni che stiamo iniziando a certificare le prime gelaterie in Italia con artigelato, che è questo la volontà appunto di disciplinare una piccola parte del mondo del gelato artigianale italiano con un disciplinare di produzione che tenga conto appunto della differenza tra il nord e il sud dell'Italia, tra l'est e l'ovest dell'Italia, e che permetta finalmente di fare chiarezza in questo mondo che oggi, a parte qualche provincia, statuto autonomo, non è ancora normale. Ecco, mi dice cosa contiene questo disciplinare, cioè qual è la differenza che avrà una gelateria certificata artigianale? Allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo. Il nostro non sarà un disciplinare che distingue le gelaterie artigianali dalle gelaterie non artigianali, ma il nostro sarà un disciplinare che definisce le gelaterie che producono artigelato, cioè un determinato tipo di gelato, un gelato artigianale tradizionale garantito. Si rifà alla storia del gelato tradizionale italiano, per ingredientistica, per composizione delle ricette e per tipologia di ingredienti. Ecco, questo è importante. Volevo chiedere, questo appunto nel nostro disciplinare si prevede l'utilizzo del latte, possibilmente fresco e di alta qualità, la panna pastorizzata e fresca, la frutta, una percentuale minima di frutta presente all'interno del gelato, l'assenza di coloranti artificiali, l'assenza di aromi artificiali, tutta una serie di, tra virgolette, paletti che abbiamo voluto inserire per garantire un prodotto. Questa garanzia ci arriva da chi? Da un ente di certificazione esterno, un ente terzo, che verrà a valutare la nostra produzione e dirà sì, quello che dicono è quello che fanno. Quel preferibilmente latte ad alta qualità cosa significa? Che si può usare anche un altro latte? Ma sostanzialmente quello che noi consigliamo è l'utilizzo di un latte di alta qualità. Il problema è che in alcune zone d'Italia è ancora difficile approvvigionarsi di latte di alta qualità. Ma escludete il latte in polvere, per esempio? Il latte in polvere viene utilizzato solamente come per aumentare quello che è il residuo, quello che in termine tecnico si chiama residuo secco, cioè la possibilità di avere un gelato conservato a meno 14 gradi che rimanga morbido al palato e completamente spatolabile. Bene, rimanga con noi. Abbiamo con noi un produttore di gelato, produttore di gelaterie, nel senso che si produce sia la materia prima che apre gelaterie ormai in tutto il mondo, una grossa catena che è Grom. Buongiorno a Guido Martinetti. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Guido, io non ho mai visto nelle gelaterie Grom in Italia e all'estero scritta gelato artigianale. È una scelta questa? È stata una scelta? No, non è stata una scelta, nel senso che la nostra comunicazione da un punto di vista, diciamo, di qualificare il nostro gelato è basata su altri elementi che, come ben sai, la ricerca della materia prima fatta in modo molto profondo anche attraverso la nostra azienda agricola. Quando si trattava di scegliere all'inizio quella che è no, la definizione di Gromi il gelato, come fosse questo gelato, noi abbiamo preferito definirlo come una volta, e quindi Gromi il gelato come una volta, però eravamo indecisi se scrivere il gelato artigianale, ma diciamo non l'ho ritenuto così originale, così qualificante, ecco, anche in assenza tra l'altro di una legge, ne stavamo parlando poco fa, ma non è una scelta come dire ponderata in negativo per non sceglierlo, ecco, per non scrivere artigianale. Diciamo che però vi siete dati un'autodisciplina, se vogliamo, nelle vostre gelaterie in giro appunto per l'Italia e per il mondo, nel senso di scelta della materia prima fresca e anche di altre cose, latte ed altro. Ci sono delle scelte particolari? Sì, le scelte sono molto particolari e sono sicuramente esasperate, nel senso che nella nostra ambizione c'è un concetto molto semplice, cioè quello di cercare di fare il gelato più buono del mondo. Questo è l'obiettivo, cercarlo tutti i giorni. Poi magari uno non ci riesce, assolutamente pazienza, però quello è l'obiettivo. Ovviamente il tema non diventa usare latte di alta qualità o meno, il tema diventa qual è la razza di vacca che mi dà origine a un certo latte. Nel senso che anche i termini dell'alta qualità possono essere ampiamente superati per titoli di grasse e proteine, se il latte non è di Frisona ma di altre razze, e così via. Potremmo parlare di ogni singolo frutto, del caffè, del cioccolato e quant'altro. Trovo molto corretto dare un disciplinare, come dire, ragionevole, minimo, tra virgolette, per poter tutelare anche il consumatore, no? Visto che il gelato tra l'altro è un prodotto italiano di grande eccellenza e i risultati che riscontro nelle mie gelaterie in giro per il mondo me lo confermano, però diciamo quello deve essere un disciplinare minimo, a mio avviso, che può essere ampiamente superato, ecco, il 35% di frutta, 40% che credo sia il tema, è veramente una quantità ragionevole, ma che può essere per esempio abbondantemente superata, e poi quale tipo di frutta e così via, cioè il dibattito sarebbe molto, molto ampio e lungo. Bene, grazie a Guido Martinetti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di gelato. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, volevo richiedere a Giannuso questo regolamento, questo disciplinare è stato diciamo fatto proprio anche dalla Confartigianato o è solo vostro? No, questo è un disciplinare che nasce dalla volontà di CNA e Confartigianato di creare un codice di autodisciplina per i nostri gelatieri. E tutto quello che è stato fatto oggi e il progetto che si sta concludendo in questi giorni con la certificazione delle prime gelaterie porta la duplice firma CNA e Confartigianato. Senta Giannoso, volevo chiedere, in futuro per un consumatore che entra in una gelateria e vede questi colori sgargianti che mi fanno molto riflettere e c'è scritto gelateria artigianale, cioè possiamo stare tranquilli? Guardi, sui coloranti sono in corso tutta una serie di ricerche anche a livello europeo per sapere se un colorante artificiale sia sicuro o meno. In Germania si è portata avanti una grande campagna contro i coloranti artificiali. Ad oggi di gelaterie stiamo notando, partecipando a fiere, girando per l'Italia, che questi colori così sgargianti sono passati di moda, si sta tornando tutti alla naturalità dei colori, sempre con dei colori sgargianti, perché ricordo che chi fa un gelato al lampone, il gelato al lampone è un rosso, è un bel rosso, ma non è un rosso colorato artificialmente. Sì Giannuso, però il pistacchio non è verde, sgargiante. Il pistacchio non è verde, ma si trovano tranquillamente in commercio dei pistacchi sul color marrone, spiegando bene che all'interno di questi gelati non vengono contenuti coloranti, o esistono anche dei pistacchi colorati con colori naturali. Bene, io la ringrazio Giannuso, grazie, poi sentiremo anche la Confartigianato. Ricordo un numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire appunto su questa discussione sul gelato, su questa trasmissione appunto, messaggi SMS 349 238 6666. Ora andiamo a Torino, andiamo da un gelatiere, da Alberto Marchetti. Buongiorno Marchetti. Buongiorno Paolini. Il quale fa parte di un gruppo che si è costituito credo da poco, che si chiamano gli artisti del gelato. gelato. Bene, Marchetti, ci vuole spiegare cosa sono, qual è la peculiarità degli artisti del gelato rispetto agli artigianali, rispetto a tante altre definizioni? Certo, beh, siamo comunque sempre, rimaniamo artigianali, siamo artisti del gelato, è un riconoscimento che ci ha dato un'azienda, l'azienda Agrimontana, che ringrazio anche per questo riconoscimento. Siamo una rete di professionisti, oggi siamo 46 in tutta Italia, siamo stati selezionati per la metodologia di lavorazione e le materie prime che utilizziamo. Seguiamo un disciplinare che è stato, diciamo, studiato da Agrimontana, che si basa fondamentalmente sulla freschezza del gelato, sugli ingredienti che utilizziamo e sulla professionalità dell'operatore. Ecco, ma voi cosa avete? Una placca, vi mettete nelle gelaterie, cioè invece di scrivere gelato artigianale vi scrivete artisti del gelato? Sì, nel senso abbiamo, oltre, vabbè, ci definiamo comunque artigianali, poi abbiamo anche una targa che viene esposta, siamo artisti perché produciamo liberamente il nostro gelato, abbiamo modo di lavorare in proprio il nostro gelato. Ecco, volevo chiederle un'altra cosa, i preparati, ecco, cioè voi usate i preparati? I preparati utilizziamo alcuni preparati, cioè quello che noi non possiamo, quello che un gelatiere da solo non sarebbe in grado di, certo, di preparare, quindi le nocciole raffinate piuttosto che i pistacchi raffinati o le mandorle, ecco. Ecco, il cioccolato, anche lo stesso cioccolato, noi non potremmo prepararlo, compriamo il cioccolato, certo. Un SMS mi chiede, esiste il gelato biologico? Io direi che esistono le materie prime biologiche che vengono usate. Esatto, ecco, sì. Lei usa delle materie biologiche? Usa delle materie prime biologiche? Parte dei miei ingredienti sono di provenienza biologica, non tutti, ma alcune parti sì, alcuni ingredienti sì. Ho capito, siete già molti in Italia di questi artisti del gelato? Ma oggi dovremmo essere circa 46, un po' in tutta Italia. Ho capito. Bene, la ringrazio, grazie ad Alberto Marchetti di Torino, artisti del gelato. Cristina dalla provincia di Milano, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, una domanda. Io, per quanto riconosco la realtà, diciamo, della provincia di Milano, è milanese, un nome su tutti, Viel. Mi chiedevo, nel momento in cui stanno creando un disciplinare, perché si mettono così tanti limiti? Cioè, pensando a Viel, dove 100% frutta, latte, quindi non preparati, e quindi questa è una realtà comunque a parte, che non fa parte di nessun consorzio e non è legato a nessun disciplinare. Mi chiedo come mai nel momento in cui si va a creare un disciplinare che dovrebbe poi regolamentare comunque un settore, una parte di questo, vengano posti così tanti limiti e non si punti al massimo, insomma. Va bene, guardi, avremo poi Loris Molin Pradel, che è il presidente della FIAGE, appunto, che raggruppa tantissimi artigiani gelatieri, lo chiederò a lui perché questi limiti. Beh, continuiamo, volevo ricordare ancora il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo, abbiamo in collegamento con noi forse è stato il primo gelatiere italiano in una gelateria, e quindi non al ristorante, proporre il gelato all'azoto. Ma guardi, c'è arrivato un radioascoltatore, forse che si ricollega alla risposta alla domanda precedente. Marco da Torino, buongiorno. Buongiorno, io ho una pasticceria gelateria alle porte di Torino e volevo dire solo una cosa: è giusto fare i disciplinari sul gelato artigianale, ben vengano, e soprattutto però ben vengano anche i controlli, perché io infatti nell'insegna mi sono rifiutato di mettere il termine artigianale, ma preferisco genuino, perché poi tra l'altro sono fra i pochi che pistacchio, mandorle e nocciole me le raffino io, e quindi ben vengano però anche i controlli, perché così ridiamo senso alle parole, perché sennò si va a perdere anche il significato della parola artigianale, perché in questo momento in Italia artigianale significa solo che è fatto dall'artigiano, e poi se si usano polveri, i monogliceridi degli acidi grassi, grassi vegetali idrogenati, quello non conta più niente, però è fatto dall'artigiano, allora viene definito artigianale. E poi per fortuna ci sono ancora i palati che sentono le differenze. Io vedo giustamente a volte i bambini arrivano nel mio locale, e giusto l'altro giorno una bambina si è illuminata, fa: ah, ma la nocciola sa proprio di nocciola. E viva Dio, i bambini sono la bocca della verità. Marco, io sono molto d'accordo con lei sul suo intervento, sono abbastanza talebano su questo anch'io, sono convinto che ci sia buona parte di quelli dove c'è scritto gelato artigianale che siano semplicemente degli artigiani, ma che poi il disciplinare che c'è stato così illustrato non è che sia seguito da molti. Va bene, ma questo poi lo lasciamo anche ai radioascoltatori se vogliono intervenire su questo argomento. Dicevo prima che c'è una gelateria a Salso Maggiore, la gelateria Sanelli, che per prima propone il gelato all'azoto liquido. Buongiorno Sanelli. Buongiorno Paolini. Buongiorno. Perché lei ha fatto questa scelta, Sanelli? Sanelli, sì. Non sono 60 anni che noi facciamo i gelatieri e siamo veramente tradizionali al massimo, uso ancora le macchine verticali, uso la frutta raccolta in campagna, più tradizionali, di noi forse non c'è nessuno, diciamo, ce ne sono tanti, però noi abbiamo abbracciato lo stesso questo sistema di raffreddamento del gelato con l'azoto, perché per noi gelatieri, e se i gelatieri lo provano rimangono entusiasti, è come avere il fuoco freddo a portata di mano, cioè noi in 10 secondi facciamo un chilo di gelato a mano in qualsiasi posto, nelle scuole, nei ristoranti, dappertutto. In gelateria in che modo lo uso? Ho queste verticali, le set 20, che mi permette di fare 3,5-4 kg di gelato in 2 minuti. In 2 minuti viene fuori un gelato spatolabile, sedoso, eccezionale, come se fosse... cioè io non ho bisogno di mettere, naturalmente non uso emulsionanti, non uso grassi idrogenati, è tutto naturale al 100%, e questo voglio ringraziare lei, voglio ringraziare anche Grom e Giannini per tutto questo bel momento che si sta creando intorno al gelato artigianale, che stava scomparendo, diciamo, mentre invece Grom sta facendo questa grande pubblicità a noi piccoli artigiani che non abbiamo la possibilità di farcela. Per esempio, io nel mio negozio mi sono fatto il mio autodisciplinare, diciamo, no? Tutti i miei clienti mi conoscono. Bene, io a questo punto la fermo perché vedo che lei è molto entusiasta, ovviamente, e ci ha già detto tutto, ma poi sul gelato all'azoto liquido torneremo con il padre dell'azoto liquido. Sentiamo Marco dalla provincia di Savona. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo specificare una cosa, secondo me, più che sul gelato artigianale, bisognerebbe discutere sul gelatiere artigianale. Secondo me gelatieri ce n'è pochissimi, i più tanti sono miscelatori, che è diverso. Bene, e l'ho detto anch'io prima, anche a seguito dell'intervento di un altro Marco, io sono molto d'accordo su questo, succede appunto che ci siano molti miscelatori, molti distributori di gelato falsamente artigianale, vabbè, però purtroppo succede. Devo leggere moltissimi sms, io ringrazio Corrado Sanelli, primo gelatiere in Italia all'azoto liquido, poi torneremo con un esperto su che cos'è l'azoto liquido in questo caso. Io dovreste arrestare chi usa i grassi vegetali. Ora l'arresto, insomma, mi sembra esagerato. Esiste un concorso per i gelatieri? Beh, poi lo sentiremo perché abbiamo l'Accademia del Gelato con noi. Il gelato buono e raro come la pizza buona, si pensa solo al profitto. Beh, ci sono anche dei gelatieri che invece non sono così. Sentiamo Attilio da Bergamo. Buongiorno Attilio. Attilio da Bergamo. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo che lei mi potesse spiegare, forse l'avrà già anche spiegato, teoricamente un buon gelato normale, artigianale, io premetto, io sono un cinquantenne, quindi forse quando avevo 10 anni mangiavo quel bel gelato che si faceva con 3-4 elementi, latte, zucchero, un po' di uova e finita la storia. Cioè per dire, quali sono effettivamente quelle poche basi naturali che servono per fare un gelato artigianale? Poi tutto il resto, e soprattutto, perché non può essere messa questa benedetta carta dove un gelatiere dice qui ci sono queste 3-4 componenti e basta, mentre io sono di Bergamo, tra virgolette, qui a Bergamo non trovo più niente. Bene, bene, grazie Attilio, poi cercheremo di farcelo spiegare da un gelatiere, ne abbiamo tanti ormai che stanno aspettando di intervenire. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di gelato. Sentiamo una radioascoltatrice da Milano, Maria Paola. Buongiorno Maria Paola. Io sono la signora che brava nei risotti, però oggi parlo di gelati. Allora, io ho intolleranza al latte. niente, ma intolleranza totale. Sono ridotta a non mangiare più neanche i gelati di frutta e ho scoperto che anche i gelati di frutta hanno la base. Vorrei sapere se qualcuno mi spiega che cos'è questa base. Solo ad Albisola, dove io di solito sono al mese di luglio, hanno aperto da un paio di anni dove fanno il gelato alla frutta. Solo frutta. È l'unico posto dove io posso mangiare il gelato. Bene, grazie signora. Vuol dire che lei non potrà fare il riso al latte, insomma, quindi che è un risotto molto particolare. Ma io credo che le convenga mangiare i sorbetti, così è sicura che non c'è latte al 100%. Ma abbiamo tantissime SMS e addirittura prima c'è stata una signora che è intervenuta portando le stelle la gelateria Viele. C'è un'altra invece, un altro ascoltatore che dice il contrario, un altro che mi dice di aver visto un documentario in Argentina di persone che guidavano l'auto mentre leccavano gelato al vino rosso artigianale, ha messo puntini puntini in maniera ironica. Bene, abbiamo parlato di gelato all'azoto liquido, abbiamo con noi il Davide Cassi, che è fisico all'Università di Parma, che è stato, diciamo, come posso dire, il padre dell'introduzione dell'azoto liquido in alcune ricette, ma anche nel gelato. Volevo chiedergli, Davide, questo, ma l'azoto liquido di particolare cosa porta dal punto di vista, se vogliamo, e torno a una parola molto così, molto in uso in questo momento, molecolare, cosa porta al gelato di differente? Guarda, l'azoto liquido attualmente è lo strumento migliore che abbiamo per raffreddare il più velocemente possibile un liquido. Quindi il gelato ne guadagna, nel senso che abbiamo una produzione rapidissima che produce cristalli di ghiaccio microscopici non percettibili dalla bocca e addirittura strutture senza ghiaccio. Cosa ci guadagniamo? Prima di tutto una struttura estremamente cremosa e la possibilità di realizzare gelati con ingredienti che prima erano proibitivi. Per esempio possiamo fare un gelato di vino, non al vino, utilizzando soltanto vino dolce congelandolo con l'azoto, il gelato di birra, il gelato di olio d'oliva. Inoltre, avendo meno ghiaccio, la bocca si raffredda pochissimo e percepiamo molto meglio più a lungo tutti gli aromi. Il colore è più vivo e, dulcis in fundo, l'azoto estrae benissimo gli aromi e il risultato in bocca è estremamente più ricco. Bene, grazie a Davide Cassi che ci ha dato questa perfetta spiegazione, così togliamo molti dubbi anche a molti radioascoltatori che avevano fatto degli SMS. Ora abbiamo, ricordo, numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Abbiamo con noi Loris Molin Pradel, che è presidente della FIAGEL, Federazione Italiana Artigiani e Gelatieri, e abbiamo sentito dal suo collega Marco Giannuso, appunto, che finalmente, ne avevamo discusso anni fa, è arrivato in porto un autodisciplinare che si daranno alcuni produttori, alcuni gelatieri artigiani che appunto si vogliono sottoporre anche a dei controlli di certificazione, ma di questo ne abbiamo già parlato. Io sono rimasto molto incuriosito e voglio chiederlo appunto a Molin Pradel, perché ho visto una sua dichiarazione che sembra che stiano arrivando sul mercato delle proteine di merluzzo, e quindi così da poter avere un gelato biotech. Ma cos'è questa storia, Loris Molin Pradel? Ma può essere vera questa? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie dell'opportunità di scambiare due parole con voi. Sì, questa notizia girava l'anno scorso, due anni fa, poi in realtà non ne ho più saputo niente di nuovo. Comunque, chiaramente, con le nuove tecnologie molto probabilmente si riescono ad ottenere delle proteine in grado di migliorare la struttura del gelato. Adesso noi non siamo contro l'innovazione, però siamo più portati a salvaguardare quella che è la tradizione. Tuttavia non vogliamo chiudere gli occhi di fronte a qualora ci dovessero essere delle innovazioni interessanti e sicure, ma così a prima vista la cosa ci lascia perlomeno perplessi. Insomma, comunque è un'iniziativa che viene da parte di una grossa multinazionale che probabilmente individua in queste proteine la possibilità di rendere il gelato particolarmente cremoso e quindi sopperire a quel difetto che ha il gelato un po' industriale di conservazione, le problematiche di conservazione. Bene, rimanga con noi, sentiamo Marcello, un radioascoltatore della provincia di Novara. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, che è veramente la mia trasmissione radiofonica preferita. Bene, grazie. Allora, l'intervento che volevo fare è il seguente. Mi sono accorto che quando si va in una gelateria dove usano grasso vegetale per, penso, amalgamare, per la preparazione del gelato, non solo il gelato non è buono, è di bassa qualità a livello di gusto, ma è clamorosamente indigeribile. Quindi uno lo paga, anche magari caro, in più poi non riesce a digerirlo. Quindi questo secondo me è l'elemento più importante. Dovrebbero vietare l'utilizzo di alcuni ingredienti. Adesso non so cosa ne pensa lei. E per un'altra cosa rapida, molto spesso la qualità del gelato è inversamente proporzionale al prezzo. Cioè ci sono delle gelaterie dove lo paghi un cono 1 euro ed è fantastico, magari nella zona di Cuneo o in certe zone del Piemonte, e magari delle zone dove paghi 2 euro un cono ed è... Bene, guardi, sul fatto dell'indigeribilità poi avremo un nutrizionista e glielo chiederemo. Sentiamo Maria da Taranto, una radioascoltatrice, torneremo poi sull'argomento, Marcello. Maria da Taranto, grazie. Pronto? Sì, buongiorno. Mi dica. Io volevo porre questa domanda. Come fare a riconoscere un gelato artigianale fatto con prodotti artigianali? Bene, chiediamo a Loris Molin Pradel, che appunto rappresenta le gelaterie artigianali. Pradel, vuole rispondere lei? Sì, volentieri. Io ho trovato tutti gli interventi degli ascoltatori interessantissimi, tre in particolare. E rapidamente risponderei a tutti e tre. La signora di Milano è preoccupata per il gelato, ha portato l'esempio della gelateria Viel. Stia tranquilla, perché il disciplinare non pone assolutamente dei limiti, ma pone dei limiti casomai minimi, no? Sotto i quali, minimi ma comunque relativamente alti, sotto i quali, andando sotto i quali sicuramente si parlerebbe di un gelato artigianale abbastanza scadente, perché se posso fare un gelato di fragola con il 10% di fragole, è sempre fragola, ma insomma è abbastanza scadente, quindi il minimo che noi stabiliamo è un 30, ciò non vieta che uno possa farlo anche col 50. Questo tanto per dire, per rispondere al discorso del disciplinare, che pone dei limiti minimi, no? Pertanto è un punto di partenza per andare verso la qualità. La qualità che, rispondo al gelatiere o pasticciere, mi sembra del Piemonte o di Bergamo, non ricordo, è una qualità che viene poi certificata, perché artigelato, come abbiamo deciso di chiamarlo, nasce praticamente da un codice che abbiamo condiviso fra noi gelatieri con l'aiuto dei grandi maestri di gelateria italiana tipo Luca Caviezel e Carlo Pozzi, ultra ottantenni ma lucidissimi e sempre attivi. Ci siamo confrontati con esperti dell'alimentazione, abbiamo un ente certificatore, abbiamo individuato un nome ed un marchio. Rimane il fatto che questa è un'iniziativa che è, come dire, volontaristica, non è obbligatorio. Chiaramente chi vedrà in una gelateria questo marchio saprà con certezza che quello che prevede il disciplinare è stato diciamo, attuato, perché è certificato, una certificazione che fra l'altro abbastanza impegnativa. Bene. Siamo molto, dico l'ultima cosa, siamo molto molto soddisfatti, perché abbiamo veramente tantissime preadesioni a questa cosa, che ci ha anche molto stupito. Bene, grazie. Abbiamo con noi un gelatiere di Firenze, Simone Bonini, della gelateria Carapina. Buongiorno Bonini. Salve Paolini, buongiorno. Lei è gelateria artigianale, cosa ne pensa di questo disciplinare? Io ho ascoltato con molto interesse gli interventi, soprattutto anche degli ascoltatori. In effetti la linea è molto sottile, no? Purtroppo, se per artigianale si intende unire degli ingredienti, insomma, vediamo. Noi personalmente da Carapina, quando io ho pensato e ho progettato Carapina, ho pensato proprio effettivamente a fare ricerca, cioè partire da una ricetta, svilupparla abbinando ovviamente degli ingredienti eccellenti, e poter soprattutto creare un gusto che sia, voglio dire, diciamo sempre lo stesso, buono, che sia soprattutto somministrabile tutti i giorni, che il cliente riesca a capire la bontà. Cioè, noi abbiamo un laboratorio a vista, per vista intendo proprio visibile dal negozio, e spessissimo noi vediamo i clienti, i nuovi clienti, perché noi siamo aperti da appena un anno, che si soffermano a vedere noi che facciamo gelato, che lavoriamo la frutta, perché noi i nostri gelati sono solamente di frutta e frutta di stagione, fra l'altro, comunicando proprio bene. Cosa ne pensa Bonini dei preparati? I preparati, noi usiamo ovviamente per nocciola e pistacchio, perché ancora la parte, diciamo così, la raffinazione non l'abbiamo affrontata per problemi di spazio, anche comunque ci siamo affidati a delle aziende, continuiamo a ricercare sempre diciamo l'eccellenza, e cercando sempre di non fermarsi. Noi sviluppiamo le ricette, adesso è da un mese abbiamo in banco ad esempio un liquore di noscino fatto con un noscino eccezionale, e l'abbiamo messo a punto man mano, cercando proprio di unire l'alcol di questo stupendo noscino al gelato, e vediamo che abbiamo riscontri, cioè il fatto della nostra passione che mettiamo nella ricerca, vedo è trasferita, cioè lo vedo perché noi abbiamo tutti clienti nuovi, non abbiamo mai fatto pubblicità perché non aggiungeva niente. Lo vedo che bene. Ovviamente tanti si soffermano sul fatto, ci chiedono, ma veramente si fa così il gelato? Lo vedono uscire dal mantecatore e si fanno dei quesiti come gli ascoltatori hanno fatto prima, dice, ma veramente è fatto con l'uovo e certo e il latte. Bene, grazie Bonini, e io devo passare la linea alla regia, prego Angela da Brescia, Luca da Bologna di rimanere in attesa, torneremo fra poco, e ringrazio Loris Molin Pradel e Simone Bonini di Carapina di Firenze. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sul gelato, sul freddo. Sentiamo Luca da Bologna, radioascoltatore. Buongiorno Luca. Ah, buongiorno a lei Paolini. Sì, no, ascoltavo appunto anche la trasmissione, sono un gelatiere di Bologna e mi meraviglio insomma come si riesca ancora oggi a parlare del gelato senza artigianale o insomma chiamiamolo come vogliamo, ma senza particolare cognizione di causa. Insomma, il gelato è un insieme di ingredienti, un giusto bilanciamento di ingredienti che con poi incorpora anche aria grazie alla mantecazione, eccetera. Altri gelatieri che saranno intervenuti prima di me sicuramente sanno di cosa sto parlando. Sentire parlare dell'azoto liquido, abbandoniamo l'incameramento dell'aria nel prodotto, e quindi insomma parliamo di un prodotto già differente, non mantecato e così via. Gli ingredienti di fondo, i grassi vegetali, i grassi animali, idrogenati, non idrogenati, anche questi sono questi temi, certo, che andrebbero sviluppati, diciamo. Io speravo che venissero fuori, speravo che venissero fuori gli idrogenati, ma ora sicuramente ho una serie di domande che probabilmente verranno fuori. La ringrazio di aver richiamato così sul discorso dei grassi idrogenati e di altro, perché poi devo fare una domanda al nutrizionista. Sentiamo Angela da Brescia. Buongiorno signor Paolini. Mi dica. Senta, per cortesia, io dopo tanta ricerca ho trovato un gelato senza latte. Sì. Fondente, extra fondente alla soia e al pistacchio, perché il latte si sa un po' contrastato, sì, come ingrediente. Vorrei sapere, ma che ingredienti usano allora? Beh, guardi, abbiamo con noi Palmiro Bruschi. Palmiro Bruschi è stato anche campione italiano, membro dell'Accademia della Gelateria. Buongiorno Bruschi. Buongiorno. Ha sentito cosa diceva questa nostra radioascoltatrice? L'ho sentito male perché avevo un disturbo in linea. Dice che ha trovato dei gelati che non c'era il latte, chiedeva cosa potevano essere, cosa ci poteva essere dentro. Ah, se non c'è il latte si definiscono sorbetti. La natura del sorbetto nasce proprio da un abbinamento di acqua, zuccheri e polpa di frutta, verdura o anche di altre cose tipo vini o liquori, come sentivo il collega prima di Firenze. Insomma, si possono creare diversificazioni, ma ecco, lo stesso latte di riso e lo stesso latte di soia. Ecco, potrebbe essere un utilizzo del latte di riso o latte di soia, probabilmente. Esatto, esatto. Specialmente perché lei parlava di gusti come cioccolato fondente e pistacchio, quindi... Beh, cioccolato adesso va molto di moda prepararlo nel periodo estivo anche a base acqua, sì, proprio, certo, per evidenziare la leggerezza, la freschezza e la potenza del nostro cioccolato, insomma. Bene, Palmiro, io volevo chiederti un'altra cosa importante. Si è parlato di grassi idrogenati, sì, ma sono ancora così frequenti nelle gelaterie? Ma diciamo che sempre più grazie a questi nei colleghi che sviluppano la parte, diciamo, politica e tematica del disciplinare, che portano comunicazione grazie alle riviste e grazie ai nostri clienti che sempre più sono informati e richiedono anche la visibilità della lista ingredienti dei nostri gelati. I grassi idrogenati purtroppo hanno fatto parte e stanno facendo parte un po' del mondo alimentare in genere, però il cliente, visto che oggi i grossi problemi li portano i grassi idrogenati, cioè, anche in America è stato creato questo video contro il mangiare male che si chiama Super Size Me, dove spiega proprio che con i grassi vegetali si muore più di obesità che di fumo, e sempre più c'è informazione per quanto riguarda il discorso alimentare. Devo dire che sta al gelatiere con buona coscienza andare alla ricerca di ingredienti di altissima qualità. Bene, ti fermo perché abbiamo parlato di indigeribilità e di grassi idrogenati. Io vorrei chiedere al dottor Sculati se sono questi che possono creare indigeribilità nell'assunzione del gelato. Molte domande di questo argomento, di molti che trovano indigesto il gelato. Buongiorno a tutti. Dunque, io direi innanzitutto darei un semplice suggerimento per le persone che vogliono gustare un gelato. Quando entrate in una gelateria artigianale che non conoscete, chiedete di poter visionare la lista degli ingredienti, perché purtroppo ad oggi tantissime gelaterie non la espongono e quindi il consumatore non sa in fondo che cosa sta mangiando. Quando la legge, gli ingredienti oli vegetali dovrebbero o essere assenti oppure essere presenti tra gli ultimi ingredienti, altrimenti se vengono menzionati prima dell'ingrediente panna, significa che il gelato è stato prodotto prevalentemente con oli vegetali. Dunque, che effetto hanno questo sulla nostra salute innanzitutto e poi sulla digeribilità? Sulla nostra salute gli oli vegetali utilizzati per la produzione del gelato sono prevalentemente tropicali, di olio e di cocco, di palma e di cocco. E questi oli hanno una percentuale di grassi saturi decisamente maggiore in media rispetto alla panna, possono arrivare fino al 70%. Per quanto riguarda invece la digeribilità, sicuramente hanno delle caratteristiche inferiori rispetto alla panna, perché la panna e il burro hanno i cosiddetti acidi grassi a catena corta che hanno una digeribilità decisamente più veloce. Quindi se visto che i gastronauti sono delle persone attente alla qualità e ai gusti, sicuramente dovrebbero scegliere solo gelaterie artigianali che non usino questo tipo di ingrediente. Bene, grazie di questo avviso, avvertimento che va al di là dei nomi e delle denominazioni che si danno le gelaterie. Leggere sempre le informative. Allora, abbiamo pochissimi minuti, però io con noi un noto sommelier che è Giuseppe Vaccarini. Buongiorno Giuseppe, ti saluto. È andata giù purtroppo la comunicazione, non so se riusciremo a ripescarlo. Alcune cose sono emerse da questa trasmissione, sperando di ripescare i nostri ospiti. Volevo dire che il discorso del disciplinare, comunque avanzato dalla CNA e dalla Confartigianato, secondo me è abbastanza importante, perché si comincia così a fare un controllo, si cominciano a vedere quali saranno le gelaterie certificate, soprattutto, che potrebbero già essere un passo in avanti. Ma io credo a quello che ha detto Sculati, diciamo in conclusione di questa trasmissione, che sicuramente il miglior controllo è la lista degli ingredienti che vengono usati nelle gelaterie, che vengono esposti e quindi di cui abbiamo notizia, abbiamo certezza, perché non credo che si possa gabbare su questo. E quindi abbiamo ripescato Vaccarini. Purtroppo Vaccarini abbiamo pochissimo tempo, mi spiace che sia caduta la comunicazione. Tu hai scritto un bellissimo libro, Il codice del gelato, e la cosa sorprendente, ecco perché ti ho chiamato, è che tu un capitolo lo dedichi al, diciamo, all'abbinamento gelato-vino, che è sorprendente. Sì, infatti come sommelier non potevo fare che quello, e in effetti, pur non essendo una cosa nuovissima, era anche poco conosciuta. Ma va anche detto che l'abbinamento si può fare solo con alcuni tipi di gelati, in particolare i semifreddi o quelli che contengono materia grassa abbastanza importante, e con vini possibilmente di origine da vitigno aromatico, passiti e dolci. Ecco. Si può fare qualche esempio? Sì, per esempio con un gelato semifreddo al marocchino con caffè, che è molto complesso come gusto, uno dei vini più adatti è sicuramente un vino tipo siciliano, un Marsala Oro, oppure una Malvasia delle Ripe ricuoroso, oppure un pasticcio di Pantelleria sempre ricuoroso, ecco. Ci puoi fare anche un altro esempio, un altro gelato semifreddo? Un altro gelato, per esempio, un, un semifreddo allo yogurt e ananas con un ricciotto di soave per cambiare zone e tipo di vino, che è perfetto, dà delle sensazioni eccezionali in bocca. Quindi sicuramente allora anche il gelato si può abbinare al vino, ed è una cosa che sicuramente è sorprendente. Io lo ricordo, questo libro che è stato scritto da Giuseppe Vaccarini, che si chiama Il codice del gelato, dove ci sono tutta questa serie di accostamenti, ma ci sono sicuramente anche altre informazioni molto interessanti. Però ritengo che la più originale, la più nuova, sia appunto questo di un accostamento vino e gelato. Un tempo era tabù cioccolato e vino, poi questo tabù è stato superato e ora con questa serie di abbinamenti anche il tabù gelato vino viene sconfitto. Bene, e adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.